C'era una volta un re e una regina che erano disperati di non aver figliuoli, ma tanto disperati da non potersi dir quanto. Andavano tutti gli anni ai bagni, ora qui, ora là, voti, pellegrinaggi. Vollero provarle tutte, ma nulla giovava. Alla fine la regina rimase incinta e partorì una bambina. Fu fatto un battesimo di gala. Si diedero per comari alla principessina tutte le fate che si poterono trovare nel paese. Ce n'erano 7, perché ciascuna di esse le facesse un regalo. E così toccarono alla principessa tutte le perfezioni immaginabili di questo mondo. Dopo la cerimonia del battesimo, il corteggio tornò al palazzo reale, dove si dava una gran festa in onore delle fate. Davanti a ciascuna di esse fu messa una magnifica posata, in un astuccio d'oro massiccio, dove c'era dentro un cucchiaio, una forchetta e un coltello d'oro finissimo, tutti guarniti di diamanti e di rubini. Ma in quel mentre stavano per prendere il loro posto a tavola, si vide entrare una vecchia fata, la quale non era stata invitata con le altre, perché da 50 anni non usciva più dalla sua torre e tutti la credevano morta e incantata. Il re le fece dare una posata, ma non ci fu modo di farle dare come alle altre una posata di oro massiccio, perché di queste erano state ordinate solamente 7 per le 7 fate. La vecchia prese la cosa per uno sgarbo e brontolò fra i denti alcune parole di minaccia. Una delle giovani fate, che era accanto a lei, la sentì e per paura che volesse fare qualche brutto regalo alla principessina, appena alzati da tavolo, andò a nascondersi dietro una portiera per poter in questo modo essere l'ultima a parlare e rimediare, in quanto fosse stato possibile, al male che la vecchia avesse fatto. Intanto le fate cominciarono a distribuire alla principessa i loro doni. La più giovane di tutte le diede in regalo che ella sarebbe stata la più bella donna del mondo. Un'altra che ella avrebbe avuto moltissimo spirito. La terza che avrebbe messo una grazia incantevole in tutte le cose che avesse fatto. La quinta che avrebbe cantato come un usignolo. E la sesta che avrebbe suonato tutti gli strumenti con una perfezione da trasecolare. Essendo venuto il momento della vecchia fata, essa disse tentennando il capo più per la bizza che per ragion degli anni che la principessa si sarebbe bucata la mano con un fuso e che ne sarebbe morta. Questo orribile regalo fece venire i brividi a tutti le persone della corte e non ci fu uno solo che non piangesse. A questo punto la giovane fata uscì di dietro la portiera e disse forte queste parole: «Rassicuratevi, o re e regina, la vostra figlia non morirà. È vero che io non ho abbastanza potere per disfare tutto l'incantesimo che ha fatto la mia sorella maggiore. La principessa si bucherà la mano con un fuso, ma invece di morire s'addormenterà soltanto in un profondo sonno che durerà 100 anni, in capo ai quali il figlio di un re la verrà a svegliare». Il re, per la passione di scansare la sciagura annunciatagli dalla vecchia, fece subito bandire un editto col quale era proibito a tutti di filare il fuso e di tenere fusi per casa, pena la vita. Fatto sta che passati 15 o 16 anni, il re e la regina, essendo andati a una loro villa, accadde che la principessina, correndo un giorno per il castello e mutando da un quartiere all'altro, salì fino in cima a una torre, dove, in una piccola soffitta, c'era una vecchina che se ne stava sola sola filando la sua rocca. Questa buona donna non sapeva nulla della proibizione fatta dal re di filare col fuso. «Che fate voi, buona donna?» disse la principessa. «Sono qui che filo, mia bella ragazza», le rispose la vecchia che non la conosceva punto. «Oh, carino, carino tanto», disse la principessa. «Ma come fate? Datemi un po' qua che voglio vedere se mi riesce anche a me». Vivacissima e anche un tantino avventata com'era, e d'altra parte il decreto della fata voleva così, non aveva ancora finito di prendere in mano il fuso che si bucò la mano e cadde svenuta. La buona vecchia, non sapendo che cosa si fare, si mette a gridare aiuto. Corre gente da tutte le parti, spruzzano dell'acqua sul viso della principessa, le sganciano i vestiti, le sbattono sulle mani, le stropicciano le tempie con acqua della regina d'Ungheria, ma non c'è verso di farla tornare in sé. Allora il re, che era accorso al rumore, si ricordò della predizione delle fate e, sapendo bene che questa cosa doveva accadere, perché le fate lo avevano detto, fece mettere la principessa nel più bell'appartamento del palazzo, sopra un letto tutto ricami d'oro e d'argento. Si sarebbe detta un angelo, tanto era bella, perché lo svenimento non aveva scemato nulla alla bella tinta rosa del suo colorito. Le gote erano di un bel carnato e le labbra come il corallo. Ella aveva soltanto gli occhi chiusi, ma si sentiva respirare dolcemente e così dava a vedere che non era morta. Il re ordinò che la lasciassero dormire in pace finché non fosse arrivata la sua ora di destarsi. La buona fata, che le aveva salvata la vita condannandola a dormire per 100 anni, si trovava nel regno di Matacchino, distante di là 12.000 chilometri, quando capitò alla principessa questa disgrazia, ma ne fu avvertita in un baleno da un piccolo nano che portava ai piedi degli stivali di 7 chilometri. Erano stivali coi quali si facevano 7 chilometri per ogni gambata. La fata partì subito e in men di un'ora fu vista arrivare dentro un carro di fuoco tirato dai draghi. Il re andò ad offrirle la mano per farla scendere dal carro. Ella diè un'occhiata a quanto era stato fatto e, perché era molto prudente, pensò che quando la principessa venisse a svegliarsi si vedrebbe in un brutto pasticcio a trovarsi sola sola in quel vecchio castello. Ed ecco quello che fece. Toccò con la sua bacchetta tutto ciò che era nel castello, meno il re e la regina. Governanti, damigelle d'onore, cameriste, gentiluomini, ufficiali, maggiordomi, cuochi, sguatteri, lacchè, guardie svizzere, paggi e servitori. E così toccò ugualmente tutti i cavalli che erano nella scuderia con i loro palafrenieri e i grossi mastini di guardia nei cortili e la piccola Puffe, la canina della principessa, che era accanto a lei sul suo letto. Appena li ebbe toccati si addormentarono tutti, per risvegliarsi soltanto quando si sarebbe risvegliata la loro padrona, onde trovarsi pronti a servirla in tutto e per tutto. Gli stessi spiedi che giravano sul fuoco, pieni di pernici e di fagiani, si addormentarono, e si addormentò anche il fuoco, e tutte queste cose furono fatte in un batter d'occhio, perché le fate sono sveltissime nelle loro faccende. Allora il re e la regina, quando ebbero baciata la loro figliuola senza che si svegliasse, uscirono dal castello e fecero bandire che nessuno si fosse avvicinato a quei pressi. E la proibizione non era nemmeno necessaria, perché in meno di un quarto d'ora crebbe lì d'intorno al parco una quantità straordinaria di alberi, di arbusti, di sterpi e di pruneti, così intrecciati fra loro che non c'era pericolo che uomo o animale potesse passarvi attraverso. Si vedevano appena le punte delle torri del castello, ma bisognava guardarle da una gran distanza. E anche qui è facile riconoscere che la fata aveva trovato un ripiego del suo mestiere affinché la principessa, durante il sonno, non avesse a temere l'indiscretezza dei curiosi. In capo a 100 anni, il figlio del re che regnava allora e che era di un'altra famiglia, che non aveva a che far nulla con quella della principessa addormentata, andando a caccia in quei dintorni, domandò che cosa fossero le torri che si vedevano spuntare al di sopra di quella folta boscaglia. Ciascuno gli rispose secondo quello che ne avevano sentito dire. Chi gli diceva che era un vecchio castello abitato dagli spiriti, chi raccontava che tutti gli stregoni del vicinato ci facevano il loro sabato. La voce più comune era quella che ci si stesse di casa un orco, il quale portava dentro tutti i ragazzi che poteva agguantare per poi mangiarseli a suo comodo e senza pericolo che qualcuno lo rincorresse, perché egli solo aveva la virtù di aprirsi una strada attraverso il bosco. Il principe non sapeva a chi dar retta quando un vecchio contadino prese la parola e gli disse: «Mio buon principe, sarà ormai più di 50 anni che ho sentito raccontare da mio padre che in quel castello c'è una principessa, la più bella che si potesse mai vedere, che essa doveva dormirvi 100 anni e che sarebbe destata dal figlio di un re al quale era destinata in sposa». A queste parole il principe si infiammò. Senza esitare un attimo, pensò che sarebbe stato lui quello che avrebbe condotto a fine una sì bella avventura e, spinto dall'amore e dalla gloria, decise di mettersi subito alla prova. Appena si mosse verso il bosco, ecco che subito tutti gli alberi dall'alto fusto e i pruneti e i roveti si tirarono da parte, da se stessi, per lasciarlo passare. Egli si incamminò verso il castello, che era in fondo ad un viale, ed entrò dentro. E la cosa che egli fece un po' stupore fu quella di vedere che nessuna delle sue genti aveva potuto seguirlo, perché gli alberi, appena passato lui, erano tornati a ravvicinarsi. Ma non per questo si peritò a tirare avanti per la sua strada. Un principe giovane e innamorato è sempre pien di valore. Entrò in un gran cortile, dove lo spettacolo che gli apparve dinanzi agli occhi sarebbe bastato a farlo gelare di spavento. C'era un silenzio che metteva paura, dappertutto l'immagine della morte. Non si vedevano altro che corpi distesi per terra, di uomini e di animali che parevano morti, se non che dal naso bitorzoluto e dalle gote vermiglie dei guardaportoni egli si poté accorgere che erano soltanto addormentati e i loro bicchieri, dove c'erano sempre gli ultimi sgoccioli di vino, mostravano chiaro che si erano addormentati trincando. Passa quindi in un altro gran cortile, tutto lastricato di marmo. Sale la scala ed entra nella sala delle guardie, che erano tutte schierate in fila con la carabina in braccio e russavano come tanti ghiri. Traversa molte altre stanze piene di cavalieri e di dame, tutti addormentati, chi in piedi, chi a sedere. Entra finalmente in una camera tutta dorata e vede sopra il letto, che aveva le cortine tirate su dai quattro lati, il più bello spettacolo che avesse visto mai. Una principessa che mostrava dai 15 ai 16 anni e nel cui aspetto folgorante c'era qualche cosa di luminoso e divino. Si accostò tremando e ammirando e si pose in ginocchio accanto a lei. In quel punto, siccome la fine dell'incantesimo era arrivata, la principessa si svegliò e, guardandolo con certi occhi più teneri assai di quello che sarebbe lecito in un primo abboccamento, «Siete voi, o mio principe», ella gli disse, «vi siete fatto molto aspettare». Il principe, incantato da queste parole e più ancora dal modo col quale erano dette, non sapeva come fare ad esprimere la sua grazia e la sua gratitudine. Giurò che l'amava più di se stesso. I suoi discorsi erano sconnessi e per questo piacquero di più, perché poca eloquenza, grande amore. Esso era più imbrogliato di lei. Né c'è da farsene meraviglia, a motivo che la principessa aveva avuto tutto il tempo per poter pensare alle cose che avrebbe avuto da dirgli. Perché, a quanto pare, la storia peraltro non ne fa parola, durante un sonno così lungo, la sua buona fata le aveva regalato dei piacevolissimi sogni. Fatto sta che erano già 4 ore che parlavano fra loro due, fitto fitto, e non si erano ancora detta la metà delle cose che avevano da dirsi. Intanto, tutte le persone del palazzo si erano svegliate con la principessa, e ciascuno aveva ripreso le sue faccende, e siccome tutti non erano innamorati, così non si reggevano in piedi dalla fame. La dama d'onore, che sentiva sfinirsi come gli altri, perde la pazienza e disse ad alta voce alla principessa che la zuppa era in tavola. Il principe diede mano alla principessa perché si alzasse. Ella era già abbigliata e con gran magnificenza, ed egli fu abbastanza prudente da farle osservare che era vestita come la minonna e che aveva un camicino alto fin sotto gli orecchi, come costumava un secolo addietro, ma non per questo era meno bella. Passarono nel gran salone degli specchi e lì cenarono, serviti a tavola dagli ufficiali della principessa. Gli oboe e i violini suonarono delle sinfonie vecchissime, ma sempre belle, quantunque fosse quasi 100 anni che nessuno pensava più a suonarle. E, dopo cena, senza mettere tempo in mezzo, il grande elemosiniere li maritò nella cappella di corte e la dama d'onore tirò le cortine del parato. Dormirono poco. La principessa non ne aveva un gran bisogno e il principe, appena fece giorno, la lasciò per ritornare in città, dove il padre suo stava in pensiero per lui. Il principe gli dette a intendere che nell'andare a caccia si era perso in una foresta e che aveva dormito nella capanna d'un carbonaio, dove aveva mangiato del pane nero e un po' di formaggio. Quel buon uomo di suo padre, che era proprio un buon uomo, ci credé, ma non fu così di sua madre, la quale, vedendo che il figliuolo andava quasi tutti i giorni a caccia e che aveva sempre degli ammennicoli pronti per giustificarsi tutte le volte che gli accadeva di passare 3 o 4 nottate fuori casa, finì col mettersi in capo che ci doveva essere in mezzo qualche amoretto. Perché bisogna sapere che egli passò più di 2 anni insieme con la principessa e ne ebbe 2 figli, di cui il maggiore, che era una femmina, si chiamava Aurora e il secondo, che era maschio, si chiamava Giorno, come che promettesse di essere anche più bello della sorella. La regina si provò più volte a interrogare il figlio e a metterlo su per levargli di sotto qualche parola, dicendogli che in questo mondo ognuno è padrone di fare il piacer suo, ma egli non si arrisicò mai a confidarle il segreto del suo cuore. Voleva bene a sua madre, ma ne aveva paura perché essa veniva da una famiglia d'orchi e il re s'era indotto a sposarla unicamente a cagione delle sue grandi ricchezze. Anzi, c'era in corte la diceria che ella avesse tutti gli istinti dell'orco e che, quando vedeva passare dei ragazzetti, facesse sopra di sé degli sforzi inauditi per trattenersi dalla voglia di avventarsi su di essi e di mangiarseli vivi vivi. Ecco perché il principe non volle mai dir nulla dei suoi segreti. Ma quando il re morì, e questo accadde 2 anni dopo, e che egli diventò il padrone del regno, fece subito bandire pubblicamente il suo matrimonio e andò con grande scialo a prendere la regina sua moglie al castello. Le fu preparato un solenne ingresso nella capitale del regno, dove ella entrò in mezzo ai suoi figli. Di lì a poco tempo il re andò a far la guerra al re Caltalabutta, suo vicino. Lasciò la reggenza del regno alla regina sua madre e le raccomandò tanto e poi tanto la moglie e i figliuoli suoi. Si contava che egli dovesse restare alla guerra tutta l'estate, che appena fu partito la regina mandò la nuora e i suoi ragazzi in una casa in mezzo ai boschi per poter meglio soddisfare le sue orribili voglie. Dopo qualche giorno vi andò essa pure e una tal sera disse al suo capocuoco: «Domani a pranzo voglio mangiare la piccola Aurora». «Ah, signora!» esclamò il cuoco. «Voglio così», rispose la regina, e lo disse col tono di voce di un'orchessa che ha proprio voglia di mangiare della carne viva. «E la voglio mangiare in salsa piccante». Quel povero uomo del cuoco, vedendo che con un'orchessa c'era proprio poco da scherzare, prese una grossa coltella e salì su nella camera della piccola Aurora. Ella aveva allora 4 anni appena e corse saltando e ridendo a gettarglisi al collo e a chiedergli delle chicche. Egli si mise a piangere. La coltella gli cascò di mano e andò giù nella corte a sgozzare un agnellino e lo cucinò con una salsa così buona che la sua padrona ebbe a dire di non aver mai mangiato una cosa così squisita in tutta la vita sua. In quello stesso tempo aveva portato via la piccola Aurora e l'aveva data in custodia a sua moglie perché la nascondesse nel quartierino di un'abitazione in fondo al cortile. 8 giorni dopo, quella strega della regina disse al suo capocuoco: «Voglio mangiare a cena il piccolo giorno». Egli non rispose né sì né no, risoluto com'era a farle lo stesso tiro della volta passata. Andò a cercare il piccolo giorno e lo trovò con una spada in mano che tirava di scherma con una grossa scimmia, eppure non aveva più di 3 anni. Lo prese e lo portò alla sua moglie, la quale lo nascose insieme con la piccola Aurora e, in luogo del fanciullo, servì a tavola un caprettino di latte che l'orchessa trovò delizioso. Fin lì le cose erano andate bene, ma una sera la malvagia regina disse al cuoco: «Voglio mangiare la regina, cucinata con la stessa salsa dei suoi figliuoli». Fu allora che il povero cuoco sentì cascarsi le braccia, perché non sapeva proprio come fare a ingannarla per la terza volta. La giovane regina aveva 20 anni suonati, senza contare i 100 passati dormendo, e la sua pelle, quantunque sempre bella e bianchissima, era diventata un po' tosta. E ora come trovare nello stallino un animale che avesse per l'appunto la pelle tigliosa a quel modo? Per salvare la propria vita, prese la risoluzione di tagliare la gola alla regina. E salì nella camera di lei col fermo proposito di non doverci si rifare due volte. Egli fece di tutto per eccitarsi e andare in bestia, e con il pugnale in mano entrò nella camera della giovane regina. Ma non volendola prendere di sorpresa, le raccontò con grandissimo rispetto l'ordine che aveva ricevuto dalla regina madre. «Fate pure, fate pure!» ella gli disse, porgendogli il collo. «Eseguite l'ordine che vi hanno dato. Io andrò così a rivedere i miei figli, i miei poveri figli che ho tanto amato». Ella li credeva morti dal primo momento che li aveva veduti sparire, senza saperne altro. «No, no, signora», rispose il povero cuoco tutto intenerito, «voi non morirete nient'affatto e non lascerete per questo di andare a rivedere i vostri figliuoli, ma li vedrete a casa mia, dove io li ho nascosti. E anche per questa volta ingannerò la regina, facendole mangiare una giovine cerva invece di voi». La condusse subito alla sua camera, dove, lasciandola che si sfogasse a baciare le sue creature e a piangere con esse, se ne andò diviato a cucinare una cervia, che la regina mangiò per cena col medesimo gusto come se avesse mangiato la giovine regina. Ella era molto soddisfatta della sua crudeltà e già studiava il modo per dare a intendere al re, quando fosse tornato, che i lupi affamati avevano divorato la regina sua moglie e i suoi ragazzi. Una sera che la regina madre, secondo il suo solito, ronzava in punta di piedi per le corti e per i cortili a fiutare l'odore della carne cruda, sentì in una stanza terrena il piccolo Giorno che piangeva perché la sua mamma lo voleva picchiare a causa che era stato cattivo, e sentì nello stesso tempo la piccola Aurora che implorava perdono per il suo fratellino. L'orchessa riconobbe la voce della regina e dei suoi figliuoli e, furibonda d'essere stata ingannata, con una voce spaventevole che fece tremare tutti, ordinò che la mattina di poi fosse portata in mezzo alla corte una gran vasca e che la vasca fosse riempita di vipere, di rospi, di ramarri, di serpenti, per gettar dentro la regina, i figliuoli, il capo cuoco, la moglie di lui e la sua serva di casa. Ella aveva ordinato che fossero menati tutti con le mani legate di dietro. Essi erano lì e già i carnefici si preparavano a gettarli nella vasca, quando ecco che il re, il quale non era aspettato così presto di ritorno, entrò nella corte a cavallo. Esso era venuto con la posta e domandò tutto stupito che cosa mai volesse dire quell'orrendo spettacolo. Nessuno aveva coraggio di aprir bocca, quando l'orchessa, presa da una rabbia indicibile nel veder quel che vedeva, si gettò da se stessa con la testa avanti nella vasca, dove in un attimo fu divorata da tutte quelle bestiacce che c'erano state messe dentro per suo comando. Ad ogni modo il re se ne mostrò addolorato, perché in fin dei conti era sua madre, ma trovò la maniera di consolarsene presto con la sua bella moglie e con i suoi bambini. Se questo racconto avesse voglia di insegnare qualche cosa, potrebbe insegnare alle fanciulle che chi dorme non piglia pesci né marito. La bella addormentata nel bosco dormì 100 anni e poi trovò lo sposo. Ma il racconto forse è fatto apposta per dimostrare alle fanciulle che non sarebbe prudenza imitarne l'esempio.